Noi abbiamo investito una quantità considerevole di euro che peraltro avevamo messo a budget. La quantità di euro messa a budget dagli altri e puntata sull'asta non è fortemente diversa, cioè i newcomer hanno creduto in questa gara e in questo mercato. La ragione sta nel fatto che il nostro mercato ha alcune caratteristiche particolari. Una, tuttora una grande presenza di un incumbent fortemente dominante sul mercato. Tutte le tendenze tendono a dire che la percentuale scenderà e quindi prima o poi genera spazi. Cioè, quindi diciamo Telecom Italia ancora in Italia, cosa che forse non è paragonabile ad altri mercati europei, un dominio del mercato estremamente elevato, soprattutto nella banda larga, Esattamente. quindi, ovvero ADSL, insomma. E questo è un dato che dovrà cambiare, nel senso che diciamo, c'è una tendenza naturale a questo cambiamento, quindi ci si può inserire in questo cambiamento. La seconda condizione è che c'è un'area di digital divide, cioè di zone non coperte da servizi che permettono l'uso della banda larga, elevato, soprattutto in termini di percentuali sul territorio, perché se è vero che la banda larga serve il 90% della popolazione circa, serve il 60% del territorio. Questo riferimento è un riferimento negativo soprattutto per le imprese che non sono urbanizzate. Molte delle nostre piccole e medie imprese sono in condizioni, appunto di digital divide perché si trovano in aree non coperte. Questo è un dato sicuramente molto, molto importante. Tu dicevi prima che c'è stato molto interesse da parte di quelli che vengono considerati newcomer, cioè i nuovi entranti. Voi siete una nuova realtà, una realtà molto piccola, nata in Umbria, che si sta trasformando. Diciamo due cose di Aria ADSL. Aria DSL la opera dal 2006, quindi è Molto giovane, effettivamente insomma. un'iniziativa molto giovane ed è il risultato di un'idea di tre giovani umbri che hanno sfruttato la competenza di uno dei tre dal punto di vista tecnologico e hanno deciso che il mercato valeva la pena dal punto di vista del tentativo e quindi hanno fatto questa iniziativa. Si sono poi incontrati con la voglia di investire in Italia per le ragioni di cui abbiamo detto prima, di una struttura di investimenti internazionale e quindi è nato questo progetto. Indipendentemente dall'attuale capacità finanziaria, che quindi genererà uno sviluppo significativo, Aria DSL nel suo piccolo aveva fatto 3.000 clienti, che non sono pochi, quasi tutti professionali nell'area su cui operava. Quindi una situazione positiva comunque, diciamo. Quando cominceranno ad esserci i primi servizi con tecnologia WiMAX? Noi pensiamo di farlo per la fine dell'anno, diciamo nel periodo fra novembre e dicembre di quest'anno. Prevediamo di avere una parte della rete funzionante e in prima approssimazione, nel senso che la pianificazione può essere rivista nelle prossime settimane, prima di iniziare le installazioni, lo faremo in Umbria perché la nostra base clienti attuale è in Umbria e passarla alla nuova tecnologia ci sembra interessante e per loro e per noi come caso poi da presentare al resto del mercato. Ciò non toglie che in realtà, si potrebbe invece cominciare anche in altre zone in parallelo, perché, esiste una flessibilità a seguire eventuali situazioni interessanti dal punto di vista di mercato o di clienti particolari. In questo senso stiamo cercando di mettere a punto delle partnership, delle alleanze con piccole aziende operanti sul territorio che possano avere già conquistato una base clienti significativa, che abbiano magari una relazione particolare col territorio e che abbiano voglia di partire con noi più velocemente. Quale sarà il vostro cliente tipo? Cioè vi rivolgete alle aziende principalmente o al mercato consumer? Poi, alla fine, diciamo, nella sintesi del business plan sui 5 anni, il modello di business è misto fra famiglie residenziali, quindi mercato consumer e aziende. Ma in termini invece di tempo, la ipotesi è quella di aggredire prima il mercato digital divide imprese, cioè le imprese che attualmente non hanno la possibilità di avere facilmente un La servizio di DSL. accesso a banda larga, la DSL o Fibra. similari. Quindi quel mercato è il nostro primo mercato di riferimento su cui cominceremo a lavorare sul piano del marketing.